La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci ancora insieme all'appuntamento con La Rosa Purpurea, l'ora settimanale di attualità cinematografica di Radio 24. Un saluto ancora da Franco D'Assisti e una settimana che verte su un grande evento cinematografico, il primo grande evento, due settimane dopo l'arrivo di Harry Potter nei cinema italiani, arrivo che, come vedremo dalle classifiche, è stato davvero devastante in termini di incassi, quasi da record assoluto. Ebbene, arriva un altro film molto atteso come Capitan America. Non è l'unica proposta però di questo weekend. Allora andiamo ad ascoltare i titoli di testa con i contenuti principali della trasmissione e poi entriamo subito in atmosfera Capitan America. Il primo eroe arriva per ultimo. Dopo Uomini Ragno e Pipistrello, Donne Gatto e Torce Umane, ecco Capitan America, il primo e più amato supereroe all'americana. Sul grande schermo e in 3D, le avventure di un ragazzo gracile e coraggioso che diventa il soldato perfetto per vincere la guerra e sgominare i nazisti. Cinque amici in un bosco per giocare alla guerra, ma c'è che di giocare davvero non ne ha intenzione e la fine del giorno si trasforma in un incubo. È At the End of the Day, esordio alla regia cinematografica di Cosimo Alemà, grande nome del videoclip italiano. Donne, motori e turpiloquio. Esce nei nostri cinema Bitch Slap. Occhieggia al Tarantino di Grindhouse, ma non vale un decimo del suo illustre predecessore e la noia è dietro l'angolo. Un festival per mostrare il meglio del cinema italiano d'autore in una delle coste più belle d'Italia. A Levanto e Bonassola, il Laura Film Festival, che si tiene anche in un vecchio tunnel ferroviario. Ne parliamo con l'organizzatore, il critico Morando Morandini. Rogers, Steven. Una possibilità. Piacente, figliolo. Ti salvo la vita. Il generale Patton ha detto che le guerre si combattono con le armi, ma sono vinte dagli uomini. Non sai proprio che vuol dire arrendersi, vero? Ho tutto il giorno libero. Il nostro scopo è creare il più grande esercito della storia. Dovrei venire con voi. So che non mi ritieni all'altezza. Questo non è un vicolo, Steve, è la guerra. Ogni singolo uomo è la base di un esercito. Cinque tentativi in cinque diverse città. Posso offrirti un'occasione. E allora l'avete sentito, Capitan America, Steven Rogers, aspirante soldato ma un po' rachitico, malaticcio, asmatico, non certo l'emblema della salute. Dotato però di grande coraggio, quel coraggio maturato in mille duelli nei vicoli di New York per un insulto o per una ragazza. Duelli sempre irrimediabilmente persi. Steven Rogers ci prova e ci riprova a farsi arruolare dall'esercito degli Stati Uniti. Vuole unirsi a quei coetanei che laggiù in Europa combattono i nazisti, ma la risposta è sempre la stessa, respinto. Steven, con ostinazione che rasenta l'ossessione, si rifà avanti nel chiosco dell'esercito allestito in una fiera del futuro, uno dei momenti più immaginifici del film. È lì che viene notato da uno scienziato dallo strano accento tedesco. Perché io? Perché l'uomo debole conosce il valore della forza, conosce il valore del potere. Non ha fatto male. Era penicillina. Noi vinceremo questa guerra perché abbiamo gli uomini migliori. Ora, signor Stark. E loro condurranno Adolf Hitler ai cancelli dell'inferno. Il dottor Erskine, breve ma incisivo ruolo per Stanley Tucci, sceglie Steven per l'esperimento. Iniettare un siero che amplifica a dismisura le caratteristiche di una persona. Quelle buone se è un buono, quelle cattive se è malvagio. E siccome i nazisti sono in possesso dell'altra metà dell'incantesimo, il dottor Erskine, che ha detto no a Hitler ed è fuggito in America, vuol centrare l'obiettivo. Creare il soldato perfetto, un modello che infonda fiducia nell'esercito americano. Quel che esce dall'esperimento è un uomo forte, muscoloso, veloce e resistente, che col suo scudo in vibranio può rimbalzare tutti gli attacchi. Steven Rogers diventa Capitan America, un forzuto leggermente sottoutilizzato all'inizio, subito dotato di calzamaglia con i colori delle Stars and Stripes e cuffietta alata, viene mandato a incentivare il reclutamento nella provincia americana, ma appena mette piede in Europa, dove i soldati combattono e muoiono quotidianamente per davvero, quel soldato diventa lo zimbello delle truppe. Urge fare qualcosa, urge combattere per togliere ai nazisti l'arma letale che può cambiare il corso della storia. Che ne pensi? penso che funzioni. Avventura anche sentimentale per il più vecchio supereroe americano, che diventa film praticamente per ultimo. Dirige uno specialista del genere, Joe Johnston, già dietro la macchina da presa per Rocketeer, Jumanji e l'ultimo Jurassic Park. Nei panni di Capitan America c'è Chris Evans, la torcia umana dei Fantastici 4, prima magrolino, poi muscoloso, grazie al computer, in ruoli di contorno ma di grande presenza il già citato Stanley Tucci, Tommy Lee Jones, Samuel Jackson, la bella Peggy e Hayley Atwell, direttamente dalla saga del Signore degli Anelli, il cattivo Hugo Weaving. Che dire, il film costato 140 milioni di dollari farà probabilmente meglio in America che in Italia. Lì Capitan America, come fumetto, ha avuto sempre un ruolo diverso che da noi, dove è rimasto un po' defilato rispetto all'Uomo Ragno, ai Fantastici 4, a Superman. Forse perché la sua storia ha incarnato perfettamente il mito patriottico dell'America che non si arrende, paladina di libertà nel mondo, un po' Enduring Freedom. Ci aveva pensato Stan Lee a dare a Capitan America uno spessore meno marziale e più sociale. Incarnava, nel fumetto, l'anima giudiziaria dell'America, non la potenza ma la giustizia, non l'irruenza ma la saggezza. Il film, pur su un impianto spettacolare, pieno di inseguimenti e combattimenti, come avete sentito, prosegue in questa direzione, soprattutto nella prima parte, la più bella, quella in cui il gracile Steven Rogers si interroga su quale sia il posto per quelli come lui, nell'America a mascella squadrata e petto in fuori. Un elogio ai costumi, fra le varie tutine dei supereroi quella di Captain è quella che il cinema ha saputo meglio reinterpretare. Fra poco le voci del red carpet della prima di Los Angeles con Chris Evans, Samuel Jackson e un supereroe ospite come Robert Downey Jr., Iron Man. Prima di dare la linea alla viabilità, diamo un'occhiata a quello che è successo al box office in classifica per quanto riguarda la scorsa settimana. Come abbiamo detto, inizio devastante nel box office per Harry Potter e i Doni della Morte, parte seconda, cioè l'ultimo capitolo della saga di Harry Potter, che è uscito di mercoledì ma ha portato a casa quasi 11 milioni di euro e chissà quanti altri durante questa settimana. Si avvia a essere il film americano di maggiore incasso di questa stagione, segno che, come già dimostra alcune delle stagioni recenti, l'estate può essere foriera di ottime soddisfazioni con il prodotto giusto. Secondo posto per Transformers 3, che comunque continua in un modo abbastanza convincente. Andiamo poi a trovare quasi residui di classifica nelle parti più basse della top 10, con film come The Conspirator, che arriva a 328.000 euro, Le Donne del Sesto Piano all'ottavo posto con 768, ma insomma sono incassi marginali, veramente molto estivi e quindi anche un po' deprimenti per quanto riguarda questa parte della stagione. Il film della settimana, uno dei film che contrassegnerà l'estate cinematografica, ovvero Capitan America, che sbarca nei cinema italiani. Abbiamo visto come la classifica sia talmente forte per Harry Potter che siamo convinti che Capitan America non ce la farà a scalzare il maghetto dalla prima posizione, ma insomma è un film che promette incassi importanti. Andiamo a sentire un po' le voci, le atmosfere della prima Los Angelina, la prima mondiale si è svolta proprio in settimana a Los Angeles, red carpet sin dalle prime ore del pomeriggio, assiepato di fans per questo film che, come abbiamo detto, porta in scena sul grande schermo il più vecchio dei supereroi americani, in attesa poi di rivederlo anche in uno dei grandi progetti, avremo modo fra poco di parlarne, che è di Avengers, proprio lo prossimo anno, i Vendicatori, dove mettono insieme praticamente tutti o quasi tutti i supereroi. Ma andiamo con ordine. Nei panni del supereroe Capitan America, Steve Rogers, c'è Chris Evans, che avevamo già visto nei panni della Torcia Umana nei Fantastici 4. E la domanda è stata abbastanza birichina: come stavi dentro la calzamaglia, che è un indumento sempre piuttosto imbarazzante? Sentiamo. Le calzamaglie erano molto scomode. In realtà non era proprio una calzamaglia, era uno di quei costumi ingombranti da film di supereroi che devi sopportare. E la verità è che sembrava anche carino. A posteriori posso dire che è stata la cosa giusta da fare e sembrava magnifico. Come abbiamo detto, tra l'altro, molto molto bello il costume di Capitan America reinventato per questo film. Robert Downey Jr., Chris Evans ha parlato appunto della sua personificazione di questo supereroe, ma raccoglie l'elogio anche di Iron Man al secolo, Robert Downey Jr. Lui è molto tagliente, è molto divertente e penso che sia stato creato solo per dare il giusto tono a Steve Rogers. Beh, Capitan America è il gangster più originale di tutto l'universo della Marvel. e penso che i Vendicatori non fanno nulla senza di lui. Così mi tolgo il cappello di fronte a lui. Eh sì, perché avete sentito appunto Downey Jr. citare i Vendicatori. Come dicevamo, tanto Capitan America quanto Iron Man faranno parte dell'attesissimo progetto di Avengers, i Vendicatori, che insieme a Thor, Hulk, alla Scarlett Johansson della Vedova Nera e un'altra mezza dozzina di personaggi dei fumetti animeranno il 2012 degli eroi in celluloide. Di quel progetto ci parla Samuel Jackson, che lì, come qui, sarà Nick Fury. When I met Chris... Ho incontrato Chris Evans e Chris Hemsworth, il personaggio di Thor. E Robert si trova nei panni di Iron Man per un momento. Scarlett si è adeguata per essere la Vedova Nera. Jeremy Renner è il grande occhio di falco. Abbiamo anche nuovi personaggi che arrivano. Mark Ruffalo è sorprendente. Così abbiamo avuto un bel po' di tempo per inserire queste nuove persone nella serie e vedere quali qualità hanno portato ai differenti personaggi. Qualities they bring to the different characters. Ebbene, questi quindi i protagonisti, le voci dei protagonisti sul red carpet di Capitan America. A questo punto non resta che attendere il responso della sala. E non resta che cominciare a giocare qui alla Rosa Purpura. Come sempre, questa estate 2011 non sospendiamo il game neanche nel mese di agosto. Quindi continuate ad ascoltarci per vincere bellissimi film in Blu-ray e DVD. Giochiamo con un Blu-ray anche questa settimana. Ascoltiamo la prima clip. La scena è pronta? La principessa si prepara a togliersi la vita? Bramo, l'amore. Frattanto, la sentinella vigila sulla soglia del castello. E allora, questa è la prima clip del film misterioso. Dovete dirci di che film si tratta. Scrivete alla rosapurpure@radio24.it con il vostro indirizzo. I vincitori saranno avvisati per il mese di agosto per ragioni logistiche dalla nostra segreteria. Più tardi ci saranno altre due possibilità. E allora è arrivato il momento di parlare di un altro film che arriva in sala in questo weekend. Si intitola At the End of the Day, alla fine del giorno, e racconta di una, potremmo dire, parafrasando, qui c'è molto da parafrasare cinema, racconta di un pomeriggio, di un giorno da cani, di un giorno in cui alcuni amici e amiche decidono di andare a fare una specie di battuta di guerra finta. Sapete che c'è questo soft air, no? Il fatto di spararsi poi colpi a volte di plastica, a volte con delle vernici che macchiano la tuta, ma insomma del tutto innocuo, un gioco di ruolo, un grande gioco di ruolo della guerra. Ma i nostri scopriranno che non è tanto un gioco di ruolo, ma che per qualcuno invece è una cosa tremendamente seria. Cominciamo a sentire la clip per entrare nel clima del film. Le armi con cui spareremo sono delle copie esatte di quelle vere. Anche toccandole non c'è differenza. Chi viene colpito è fuori, chiaro? Proviamo a chiedere a qualcuno. Di che vi preoccupate? Ci siamo soltanto persi. Cosa è stato? Non ti senti un po' stupida? Insomma, stiamo giocando alla guerra. È solo un gioco. Ti sembra vero? Prepariamoci! Copertura! Sono fuori! Tanto sono già morto. Dirige Cosimo Alemà al suo esordio, al lungometraggio di narrazione, che è in collegamento con noi. Ciao Cosimo. Ciao, buonasera. Grazie per essere qui con noi alla Rosa Purpurea. Allora, dicevo prima, ci sono tanti padri, se vogliamo, no, per questo, tanti padri nobili per questo tuo film, nel senso che queste storie di avventura che diventa disastro, diciamo così, a un certo punto hanno condito e hanno, come dire, animato alcuni dei film che sono rimasti così nell'immaginario. Mi viene in mente Un tranquillo weekend di paura, ma mi viene in mente anche il più recente Hostel. Insomma, la situazione nella quale i protagonisti ignari a un certo punto si trovano di fronte a qualcosa di più grande di loro. Hai diciamo attinto nel tuo immaginario anche un po' a queste storie per creare questa situazione? Sì, guarda, beh, assolutamente. Per esempio, come dicevi te, Un tranquillo weekend di paura è sicuramente il film al quale, insomma, sia io che i produttori in realtà ci siamo veramente sempre ispirati, molto meno ad Hostel, che insomma è un film che in realtà, insomma, molto diverso da quello che abbiamo fatto noi. The End of the Day è un film, in realtà è più un thriller, che è vero ha un, diciamo così, un meccanismo narrativo tipico di un certo tipo di film, ma in realtà uno sviluppo un po' diverso, soprattutto un ritmo, un linguaggio linguaggio cinematografico molto più lento, molto più così, insomma, diciamo da thriller psicologico. Nonostante questo, sì, sicuramente altri film, forse come I Guerrieri della Palude Silenziosa di Walter Hill, insomma, più film del passato mi vengono in mente che cose, devo dire, recenti. Questo, boh, non so cosa significa. C'è qualcuno qui. Ho visto un uomo di spalle. Alex, ma è vero? Sì, è vero. Chi è quello? Filippo! È ancora lì! Dove stai andando? Aiuto! Aiutateci, vi prego! Moriremo tutti. Cosimo, una vera e propria produzione internazionale, perché è vero che la crew, a partire da te, a tutti i tecnici della fotografia, eccetera, sono italiani, ma è anche vero che praticamente tutto il cast è straniero e il film è parlato in inglese, è recitato in inglese. Sì, beh, guarda, una delle nostre, così, una delle cose che volevamo proprio in assoluto dall'inizio era quello di fare un film che potesse varcare un po' i confini nazionali, anche perché i nostri film all'estero sono molto mal visti e soprattutto, diciamo, è impossibile quasi esportarli e distribuirli fuori dei nostri confini. Per cui, insomma, ci è sembrato molto naturale girare il film in inglese e soprattutto nel momento in cui abbiamo preso questa decisione è stato molto naturale per noi decidere di chiamare degli attori che la lingua inglese la parlassero già, insomma, di loro, e quindi, diciamo, per mantenere una, come dire, un'identità comunque europea e non americana, siamo andati a Londra e lì abbiamo trovato, insomma, più o meno tutti gli attori del cast che sono giovani, con poche esperienze cinematografiche alle spalle, ma veramente, insomma, dal mio punto di vista straordinari. Senti Cosimo, il film è ambientato in un luogo, una campagna dei Balcani, per intenderci, un bosco dei Balcani, e in una data precisa, cioè l'inizio degli anni 90. C'è qualcosa di reale, una storia vera alle spalle? Sì, guarda, in realtà il film è ambientato in un non luogo. È ovvio che noi immediatamente quell'immaginario ci riporta a qualcosa che appunto ha a che vedere magari con i paesi balcanici e tutta una serie di episodi così. In realtà quando il film lo vedono in America i loro riferimenti sono, quindi, diciamo, in realtà è abbastanza una storia senza tempo e senza luogo. Nonostante questo, pur avendo noi avuto un'idea a un certo punto originale per il film, facendo delle ricerche abbiamo scoperto che c'erano delle inquietanti invece come dire, similitudini con dei fatti realmente accaduti proprio nei Balcani negli anni che hanno insanguinato così la ex Jugoslavia, e quindi, diciamo, ci siamo fatti anche influenzare da questo, per cui il film in realtà è ispirato a fatti realmente accaduti, a più di un accadimento. Perfetto, grazie allora a Cosimo Alemà. Vi ricordo il film nelle sale italiane, At the End of the Day. Grazie ancora. Grazie. E allora salutiamo Cosimo Alemà. Prima di dare la linea alla regia, notizie e rumors delle ultime ore. Settimana prossima ci sarà la conferenza stampa di presentazione della 68esima mostra del cinema di Venezia e cominciano ad arrivare le prime indiscrezioni, le prime crepe nel muro, appunto, dell'organizzazione. Tutto sarà svelato il 28 marzo a Roma, il 28 luglio, scusate, a Roma, ma si comincia a sapere qualche nome. Gli italiani dovrebbero essere presentati in concorso con Terraferma di Emanuele Crialese, Quando la notte di Cristina Comencini e pare a sorpresa l'opera prima di Gianni Pacinotti, il fumettista Gianni Pacinotti, L'ultimo terrestre, prodotto da Domenico Procacci di Fandango. E tra l'altro avremo un'intervista realizzata in esclusiva per La Rosa Purpurea proprio con Gipi, con Gianni Pacinotti, nelle prossime settimane, quando cominceremo ad analizzare un po' i film italiani dell'inizio della prossima stagione. Davvero una sorpresa per questo film davvero molto molto originale, che tra l'altro poi lo sveleremo, coinvolge anche in una certa parte Radio 24 e uno dei suoi programmi di punta. E poi chiaramente cominciano a venire fuori anche nomi di grandi star internazionali, su tutte davvero dovrebbe esserci Kate Winslet in ben due film e una serie televisiva, abiterà a Venezia praticamente per tutto il periodo. Adesso parliamo di un film che vi sconsiglio di andare a vedere. C'è un film veramente inutile e irritante. Questo è il mio parere. Direte, cosa ha fatto di tanto grave sto film? Sì, lo so che è un genere, quello dell'erotico alla leggera, per intenderci, mischiato all'action. Insomma, si dice donne motori, ma anche donne pugni, donne fucili, soprattutto se le donne sono seminude. È un genere che ha sempre funzionato e che ha i suoi titoli. Sono titoli di nicchia, sono titoli per un pubblico, insomma, che ha, diciamo così, il suo interesse a vedere queste belle donzelle lottare e strapparsi i capelli, ma ciò non toglie che siano film, almeno in questo caso stiamo parlando di Beach Slap, le superdotate, e voi pensate un po' già dal titolo, insomma, su che cosa punta la comunicazione. Dicevo, è un film che però vi segnaliamo perché fa parte di un filone, non è che sia arrivato così alla chetichella. Una storia, se si può così dire, che mescola appunto ragazze super sexy, macchine sportive, armi che farebbero il piacere di qualsiasi super soldato e un turpiloquio continuo per tutta la durata, per raccontare una storia che ogni tanto tenta anche di strizzare l'occhio a delle tarantinate, ma Tarantino, quando sarà il momento, si rivolterà della tomba per questo film, probabilmente. Allora, cominciamo subito a sentire però una prima clip per entrare un po' nel clima. Ascoltate bene. Buonasera, Dwyer. Non vedo la tua bella faccia dai tempi del Glory Hall. Camero, io stavo solo eseguendo gli ordini. Non era duro. Oh, merda, piscia, fate passione, cazzo, ok? Dov'è Gage? Tesoro, nessuno qui mi ha mai battuto. Va bene, te lo dico. Gage ha organizzato un festino con alcune delle sue puttane venerdì. Ecco, avete capito un po' che aria tira, uomini sottomessi, donne trionfanti, Ave Maria di Schubert usate a sproposito, insomma ce n'è un po' di tutti i colori. Adesso le ho dette talmente tante che ho quasi la paura a chiamare in causa Boris Sollazzo, che sicuramente mi dirà che il film gli è piaciuto. Boris! No, non ti preoccupare, stai tranquillo. Grazie, Boris, grazie. Do il mio buongiorno, buonasera a tutti gli ascoltatori, ma no, non posso dire che mi è piaciuto, ma credo che nessuno sano di mente possa dire che gli è piaciuto. Può avere forse più accondiscendenza o meno accondiscendenza verso un film del genere, insomma. Certo è che questo tipo di racconti vengono dal filone più nobile, se vogliamo chiamarlo più nobile, di Roger Corman, che lo fa tuttora. Insomma, io penso a Gladiatrix, che è un film capolavoro tanto quanto Beach Slap. Tra l'altro, tu criticavi la comunicazione, mi permetto semplicemente di dirti che la comunicazione italiana è estremamente più raffinata di quella americana, perché se pensi a quello che vuol dire Beach Slap, noi invitiamo i nostri ascoltatori a guardare i vocabolari, è ancora peggio, insomma, è ancora più aggressivo. Il film, secondo me, soffre proprio del tentativo di imitazione, nel senso che quel tipo di racconto, quel tipo di genere, quel tipo di film è anche divertente, voglio dire, in fondo Grindhouse che cos'è? Se non il tentativo di tornare a quel tipo di film, e secondo me è riuscito, non commercialmente ma sicuramente esteticamente, soprattutto la parte di Tarantino è assolutamente molto simile a quello che potrebbe essere Beach Slap. Beach Slap però è proprio un'imitazione, cioè un pallido tentativo di raccontare quel tipo di storia senza l'ironia e l'autoironia e la demenzialità che avevano quel tipo di storie, ma solo cercando di ricopiarle e cercando di togliere più stoffa possibile alle tre signorine protagoniste, che forse è proprio la parte meno spiacevole, devo essere sincero, ma questo solo per gli uomini. Quindi, insomma, in un paese, in un mondo un pochino più femminista di quello in cui si facevano questi film, certo non può essere un valore. Quindi devo dire, io sono un po' più accondiscendente di te, forse non lo definisco irritante, ma abbastanza inutile, sì. Ecco, ma sai perché dico irritante? Perché, come hai detto tu giustamente, appunto il parallelo è ovviamente improponibile, perché chiaramente Grindhouse come dire, ripropone in una chiave, in un punto di vista totalmente personale, un genere e gli stilemi di un genere. Qui invece c'è la scoppiazzatura totale e anche con poca fantasia, devo dire, che non vada oltre appunto qualche balletto particolarmente erotico. C'è veramente diritante l'uso dello strumento cinema, cioè che è il più bieco possibile, tanto che si pregiudica ovviamente tutta una fetta di pubblico proprio per questo motivo. Ecco, questo è un po' forse la cosa che lo fa uscire dal divertente, a mio modo di vedere, lo fa diventare irritante. Cioè il cinema, queste cose le abbiamo viste tutte, le abbiamo viste da tanti anni, c'è stata tutta la i B-movie exploitation degli anni 60-70, ci sono le parodie, ci sono tanti generi a cui rifarsi, magari anche senza troppa inventiva. Qui però veramente siamo alla carta carbone e si pensa a un pubblico davanti allo schermo che sia un pubblico appunto che ecco, si gode, si bea queste bellezze assolutamente discinte e svestite, che a me francamente mi annoiano molto, non in quanto bellezze e neanche in quanto svestite, ma in quanto usate cinematograficamente male. Questo è un po', diciamo, il mio punto di vista. Boris, ti troviamo ancora una volta in un aeroporto, è l'uomo che viaggia di più al mondo, di Bucarest però, e tu però cosa ci sei andato a fare? Perché i frutti di questo lavoro prima o poi i nostri ascoltatori li sentiranno. Assolutamente sì, devo dire che anche qui sono molto sensibile al fascino femminile, non solo come Bitch Slap, però sono venuto per un'altra cosa, che è uno dei film, lasciatemelo dire, dopo aver visto qualche scena che probabilmente cambierà la storia del cinema italiano e forse la storia e basta, che è Diaz, prodotto dalla Fandango di Domenico Procacci, ma anche dal francese Labbadie e dal romeno Paunescu, e diretto da Daniele Vicari. Siamo venuti qua, abbiamo intervistato produttore, direttore, uno dei protagonisti, anzi vari protagonisti, Elio Germano, Ignazio Oliva, Rolando Ravello, e speriamo di darvi tutto quanto perché è davvero un'esperienza importante. Grazie allora a Boris Sollazzo, lo rincontreremo in questa calda estate per raccontarci tutti i B-movie che arrivano nelle sale in questo momento in cui magari non ci sono freschissime novità, ma qualcosa viene tirato fuori dai cassetti. Boris, buon viaggio e appuntamento alla prossima settimana. Grazie anche a te, buon viaggio a tutti quanti quelli che i nostri ascoltatori appartiranno e a quelli che ci ascolteranno. E allora, noi lasciamo Boris Sollazzo e abbiamo parlato di Beach Slap. Prima di giocare insieme, voglio farvi una segnalazione, perché da questo sabato proprio, da questo 23 luglio e nelle prossime settimane, ogni martedì e ogni sabato, il Sole 24 Ore ha messo in edicola, al prezzo assolutamente modico di 10 centesimi in più rispetto al giornale, un libretto che si chiama Q&A, detto all'americana, misura il tuo sapere, ovvero argomenti diversi, quiz, domande e risposte per verificare la vostra preparazione su un tema. Ce n'è di tutte, ma si è cominciato proprio con il cinema, e questo chiaramente il senso della nostra segnalazione. Quindi si comincia con il cinema, ma si finirà anche, tra l'altro ce n'è anche uno in quale film e in quale libro, questo sarà a ottobre, magari ne parleremo, e quindi ci sarà questo rapporto fra cinema e letteratura, poi tutto verrà raccolto in un maxi volumetto che sarà in edicola più in là, per cui se siete amanti di questa forma di sapere enciclopedico o di test del vostro sapere, ebbene c'è questo Q&A, misura il tuo sapere, in edicola con il Sole 24 Ore. Dicevamo, giochiamo perché è arrivato il momento di ascoltare la seconda traccia del film misterioso di oggi. È l'immutabile legge del deserto. Controlla l'acqua e controllerai ogni cosa. La Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, per provare a vincere il Blu-ray di questo film, più tardi ci sarà l'ultima possibilità. E allora, nel panorama dei festival di questa estate, ce n'è uno che è davvero molto molto particolare. Si intitola Laura Film Festival. È in corso di svolgimento, lo sarà fino al 31 luglio nelle cittadine sempre eleganti e particolari di Levanto e Bonassola in Liguria, del Laura Film Festival noi parliamo con un critico che è, adesso lui è una persona molto, molto schiva, mi dirà che esagero, ma che è una vera leggenda, ovvero Morando Morandini, che è in collegamento con noi. Ciao Morando. Buongiorno, buongiorno. Allora, parliamo un po' di questo festival dalle due località unite da un tunnel, un vecchio percorso ferroviario che è stato restaurato, riaperto e che ospita momenti di questa manifestazione, anche se poi i film sono proiettati in vere e proprie sale cinematografiche. Insomma, che festival è, Morando, il Laura Film Festival? Allora, il Laura Film Festival è arrivato alla sua ottava edizione, nel senso che è stato fatto per la prima volta nel 2004, l'anno dopo la morte di mia moglie, Laura Tartaglia Morandini. È un festival di famiglia. Era stata un'idea che ci era venuta per continuare la presenza di Laura. Levanto, tra l'altro, ha una particolarità, che pur essendo un comune che ha 6.000 abitanti, ha due sale aperte tutto l'anno. Diciamo, la novità di Bonassola, cioè, è del tunnel, cioè dei tunnel. Ecco, parliamo un po' di questi tunnel, Morando, perché ho visto le immagini su internet, sono veramente suggestive. Sulla linea ferroviaria, diciamo, di Genova-Spezia-Livorno, in certi punti di questa linea è stata spostata la linea ferroviaria e sono venuti, diciamo così, liberi dei tunnel, delle gallerie. Una di queste gallerie è quella tra Bonassola e Levanto, l'ex tunnel ferroviario tra Bonassola e Levanto, per fare degli interventi di arte figurative, fare degli spettacolini teatrali. Morando, solo il tempo per un occhio al programma, ai film che verranno invece proiettati in sala Levanto. I 5 film principali sono sempre italiani, e li scegliamo tra i film che sono piaciuti a noi, intanto, e che secondo noi hanno un particolare buon lavoro, a prescindere dal successo di pubblico. I 5 film di quest'anno sono Boris, il film, Notizie degli scavi di Emilio Greco, Corpo Celeste della Rohrbacher, Sorelle Mai di Marco Bellocchio e La scuola è finita di Valerio Ialongo. Poi facciamo un omaggio a Nigi Rardot, che è morta da pochi mesi fa, presentando i film che ha girato con Marco Ferreri, e sono La donna scimmia, Dillinger è morto, Il seme dell'uomo, e poi un documentario sullo stesso Ferreri che si chiama Ferreri I Love You. Beh, insomma, direi che sicuramente è molto stimolante anche questa parte legata appunto a Daniel Girardot, ma poi a Ferreri, e quindi, come dire, sono due omaggi in uno praticamente che siete riusciti a fare. Morando, ti ringrazio, allora in bocca al lupo per questa ottava edizione del Laura Film Festival. Lo ricordiamo le date: Levanto e Bonassola fino al 31 luglio. Grazie. Va bene. Eccoci arrivati quasi in fondo alla nostra corsa di questo fine settimana. Siamo arrivati allo spazio delle visioni domestiche, dei film da vedere a casa, in un video ma anche in televisione, come sempre dando un'occhiata ai palinsesti della settimana successiva per vedere che cosa ci propongono, quali chicche di grande cinema si possono recuperare. E lo facciamo sempre con gli amici della redazione del settimanale Film TV. È in collegamento con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco. Allora, parliamo un po' della prossima settimana, cominciando con una proposta che arriva subito e riguarda un grande autore di nicchia, che non sembri una contraddizione, ma Atom Egoyan forse può essere proprio indicato in questa maniera. Sì, infatti lunedì su Rai Movie alle 22.55 Il viaggio di Felicia, un Egoyan di fine anni 90, l'anatomia del rapporto tra un killer seriale e la sua vittima designata, una fotografia dell'incontro tra quelle che sono due solitudini, due anime abbandonate, in cui Egoyan, appunto autore di nicchia ma capace di rivolgersi anche al grande pubblico, fonde il suo stile fatto di intrecci tra presente e passato, in una sorta di puzzle di immagini che si riaggregano lentamente e schiariscono il significato del film, fonde questo suo tocco con l'insegnamento per tutti, diciamo, di Alfred Hitchcock, capace quindi anche di creare intrattenimento, un film capace di essere insieme delicato, torbido e struggente. Uno straordinario Bob Hoskins, esatto, protagonista, sì. Davvero, davvero di grande sensibilità. Allora, ricordiamo Il viaggio di Felicia, lunedì, Rai Movie alle 22.55. La prossima proposta invece riguarda un autore che mi sta particolarmente a cuore. Sono sempre stato un grande amante di Michael Haneke, ma questo è uno dei suoi film più singolari, davvero nella quale magari si fa più fatica a riconoscere le stigmate della sua autorialità, ma diventa una sorta di manifesto di un futuro davvero torbido. In questo caso stiamo parlando del Tempo dei Lupi. Esattamente, martedì su Rai 5 alle 21.10, appunto Il Tempo dei Lupi. Siamo in un ambiente apocalittico dove le cause di questa apocalissi non vengono mai spiegate e gli uomini sopravvissuti, come sempre in Haneke, si trasformano in lupi. Appunto la visione catastrofista dell'autore austriaco trova una sorta di realizzazione tematica dove la società occidentale e il suo benessere vengono stravolti. E come sempre con questo grandissimo autore siamo di fronte a una provocazione e a una prova per lo spettatore, che nel seguire il film smarisce appunto il senso e le coordinate sia del proprio mondo che di quello che ha di fronte. E allora ricordiamo l'appuntamento Il Tempo dei Lupi martedì prossimo su Rai 5 alle 21.10. Questa è la segnalazione. Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana. Grazie a te Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di FinTV. E dopo le segnalazioni dei palinsesti televisivi della prossima settimana, noi siamo alla terza e conclusiva traccia del film misterioso di oggi. Sentiamo. Dalle mie parti, uccidiamo un uomo prima di colazione, giusto per stuzzicarci l'appetito. Poi lo saliamo, poi lo pepiamo, poi lo rosoliamo in burro chiarificato e poi ce lo mangiamo. E allora l'ironia dei dialoghi legata a un film recente, ecco, possiamo venirvi incontro. Se avete indovinato di che film si tratta, scrivetecelo alla Rosa Purpure, a @radio24.it per provare a vincere il Blu-ray proprio di questo film. Così come la settimana scorsa abbiamo giocato con questa traccia. Lo sapevo. Sapevate cosa? E siamo seguiti. Ho chiesto all'indiano di farmi un segnale se vedeva qualcuno sulle nostre tracce. Allora, si trattava di Il Grinta. Il film lo hanno indovinato in molti, però anche molti hanno sbagliato, con questa voce molto, molto western, quella di Jeff Bridges in questo bellissimo remake di un western classico con John Wayne, questa volta appunto Jeff Bridges nei panni della Grinta e dietro la macchina da presa i fratelli Coen. Mi fa piacere che però le più veloci e brave del sabato e la domenica siano state due donne, due ascoltatrici, che insomma sfata anche il mito del western come genere rude per omaccioni. Chiara Melegari di Traversetolo, provincia di Parma, e Maria Di Giandomenico di Chieti sono le due ascoltatrici che riceveranno il Blu-ray del Grinta e noi siamo già in collegamento con Claudio Poffi per farci raccontare un po' i contenuti di questa edizione in un video di questo Blu-ray, perché il film è straordinario, però insomma anche il Blu-ray se la cava piuttosto bene. Claudio. Sì, ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sicuramente la pubblicazione di Paramount in alta definizione è notevolissima, sono immagini solide di elevata caratura, la cinematografia del maestro Roger Deakins è restituita in tutta la sua pienezza rispetto al DVD. Per l'audio abbiamo la traccia Dolby Digital multicanale simile a quella del DVD, diciamo che dà più che altro conforto all'accompagnamento musicale, maggiore sostanza sicuramente per la traccia originale DTS ad alta risoluzione. Ci sono contenuti contenuti speciali interessanti, tra cui segnalo sicuramente l'analisi dei costumi, delle armi, delle scenografie. C'è un focus sul cast e addirittura sullo scrittore del romanzo, pubblicato a puntate su un quotidiano americano. Passiamo al cinema degli anni 70, il grande cinema di impegno civile americano. Era il 1976 quando Alan J. Pakula dirigeva un film destinato a cambiare anche un po' il ruolo militante del cinema americano più democratico. Era la storia di due nomi diventati importanti, quelli di Bob Woodward e Carl Bernstein. Era Tutti gli uomini del presidente. Deve dimenticare i miti che la propaganda ha creato attorno alla Casa Bianca. La verità è che quella non è gente molto sveglia e la situazione gli è sfuggita di mano. Hunt è venuto allo scoperto. A quanto pare c'è un avvocato al quale avrebbe dato $25,000 per tappargli la bocca. Segua il denaro. Che vuol dire? Dove? Questo non posso dirglielo. Potrebbe dirmelo, però. No, devo fare le cose a modo mio. Lei mi dica quello che sa e io lo confermerò. La tengo nella direzione giusta, se posso. Ma questo è tutto. Nel giugno del 72, cinque uomini vengono arrestati dopo essere entrati illegalmente nel quartier generale del Partito Democratico presso il Palazzo Watergate a Washington, tra loro anche un dipendente della CIA. L'indagine dei giornalisti Woodward e Bernstein del Washington Post, non senza imprevisti e fondate preoccupazioni sull'incolumità personale, porterà alla luce l'esistenza di un'organizzazione ombra collusa con FBI e CIA che utilizza qualsiasi mezzo per compromettere la posizione del Partito Democratico, favorendo la rielezione del presidente Nixon. Da regista Pakula, una delle opere più riuscite nella rilettura del libro che i due famosi giornalisti scrissero, incoraggiati tra l'altro da Robert Redford, che interpretò Bob Woodward al fianco di Dustin Hoffman. Da Warner Home Video, l'uscita Blu-ray nettamente superiore per qualità di immagine all'edizione doppio disco DVD, l'audio monofonico in italiano con l'originale doppiaggio dell'epoca. Abbiamo sentito insomma un po' di soffio, però direi che la qualità c'è tutta. Tra gli extra sicuramente interessanti il commento al film, purtroppo non sottotitolato, di Robert Redford, un interessante making of e un focus sui due giornalisti Woodward e Bernstein, e oltre a vari documenti dell'epoca. E questo è un po' il panel di questo Blu-ray, peraltro appunto si diceva un po' di soffio, ma insomma gli anni sono tanti e comunque il film vale sempre la pena, tra l'altro con un Robert Redford che è rimasto legato poi a quelle tematiche. Lo abbiamo visto anche recentemente raccontare proprio l'America delle origini nel suo ultimo film sull'assassinio di Abramo Lincoln. Il film è The Conspirator. Andiamo avanti, cambiando totalmente genere, anche qualità filmica, diciamolo pure, con un adventure come Jumanji. Scenda dalla mia macchina, per favore, e salga sul marciapiede. Dio, che anno è? L'ho presa nuova di zecca. No, in che anno siamo adesso? 1995, ricordi? 95. Ce l'ha un documento? Oh, scommetto che l'ha lasciato nell'altro costume da Tarzan, giusto? 26 anni! Lei è di queste parti, per caso? Lo ero. Sono stato a Jumanji. Indonesia. Era nel WWF. Sepolto nel 1869 da due ragazzini terrorizzati, il misterioso gioco a dadi Jumanji viene recuperato dal dodicenne Alan, che assieme a un'amica decide di provarlo, e così il piccolo finisce letteralmente risucchiato al suo interno in una misteriosa foresta. 26 anni più tardi Alan, ormai adulto, si ritroverà liberato da altri due giovani ignari del pericolo che loro e l'intero vicinato corrono dopo che i dadi sono stati nuovamente lanciati e il gioco è ripreso. Nel 1995 il regista Joe Johnston, lo stesso che ha recentemente diretto Capitan America, realizzava una commedia fantastica con uno strabiliante Robin Williams e la presenza, direi piuttosto ingombrante, di effetti speciali in computer grafica. Qualità delle immagini sicuramente superiore al DVD per questo Blu-ray di Sony Pictures Home Entertainment, che questa volta offre come audio l'italiano Dolby Digital, è identico al DVD, superiore solo l'inglese di DTS alta risoluzione. E per gli extra segnalo il commento della troupe degli effetti speciali, molto interessante per capire all'epoca come si lavoravano questi effetti, approfondimento sugli storyboard, ma attenzione perché è presente anche un simpatico gioco virtuale. E allora grazie Claudio Pofi, appuntamento alla prossima settimana con le segnalazioni in un video. Ciao, a presto. E così abbiamo chiuso questa puntata della Rosa Purpura. L'appuntamento va al prossimo weekend. Vi ricordiamo che per tutto il mese di agosto noi saremo sempre qui in onda con puntate fresche, nuove di zecca, con tanti contenuti, con i contenuti che il cinema ci darà, ma soprattutto con un grande viaggio nei set estivi, nei film italiani che si stanno preparando, si stanno concludendo in sala di montaggio prima che appunto l'autunno ce li porti sul grande schermo. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisti.